Sono ancora qua, fermo ad aspettare. No, non finirà, mi avveleno all'istante il pensiero costante di te. Cosa non darei per tornare indietro? Cosa pagherei per averti ancora? Mille volte ancora. Io non vivo più, l'amore e tu sono le cose che io voglio di più. Quello che sei, tu non lo sai. Casi tu guardo, ma innamoro più di te. Ovunque andrai, io ci sarò. Se ci credi anche tu, posso darti veramente di più. Tu, forse non so amare. Quante volte lo hai detto stasera? Maramello tu, togli dal mio cuore questo vuoto d'amore. Io non vivo più, l'amore tu. Non sono mai stata innamorata così. Non può finire, si può morire. Sina prete che porti in fondo, tu sei il tempo che si sta fermando. Io non